600 kg in meno risultavano. Cosa ha cambiato rimorchio lui, capito? Aspetta, che mancato nel ghiaccio, non sul gas destro, perché andando al gas sinistro. Sei pieno di questi idiota, ne hai tu da mettere freccia, no, devono passare. E beh, l'hanno preso solo in meno. 100 kg in meno. Poi ti dice, facciamo per te che non ci hai dato la tara. E poi dice, sono mezzo attaccati, gli hanno fatto scaricare la macchina. Poi ti ha detto, la domani mi dice, becco qua, se vi vedo pesando la macchina e qualcuno sul peso, vi faccio le foto e vi denuncio. Sì, poi lui, cioè, deve tenere a freno la lingua, ancora non ha capito. Cioè, se vi diamo la puntiglia, è peggio che mai. Capito un cazzo qua. Guarda, io la... due settimane fa carico, faccio un rando e risultavano 300 kg in meno. E gli ho fatto, guardate che ho il serbatoio completamente vuoto. Ah no, qua tu devi venire col pieno. Ma chi te le ha dette queste cose? Me le dice Diego. Qua dovete venire col pieno. E se noi in deposito non li abbiamo? Ah, non mi interessa neanche a me. Mi fa la scarichi la macchina, non scarico macchina, gli ho detto. Venite, vi apro il serbatoio e constatate che è vuoto il serbatoio. È da 400 e i conti tornano. Ah no, no, qua scarichi la macchina. Dove le scarico, gli ho detto? Perché non le scarico? Cazzo, tira, molla, poi, vabbè, allora dichiaraci. Io non dichiaro un cazzo. Voi venite, controllate e vedete che è vuoto. Sì, guarda, veramente, io anche l'altra volta... ho preso anche a me, io ce l'avevo sabato, io mi sono dimenticato di fornire il giorno, ma qua là così, alla fine sono salito sul peso io e è venuto Andrea, ci siamo messi sul peso e l'ha timbrato, basta, finisci da lì, è inutile che stai, quando c'è Diego quei giochi lì loro non li possono fare, capito? Ma poi questa cosa, infatti io, quelli di Orizzano quando arrivano qua vanno a rifornire, gli ho detto di nuovo, ma siamo lì. E lui come mai era in meno, ce l'ho osservato io vuoto, anche lui. Ha cambiato rimorchio ed era diversa la sala. Un rimorchio completamente diverso ed era, gli risultava una sala diversa allora. Stavano pensando, oggi dovevano stare entrando, chiaramente, perché quando la portano hanno beccato tutto il giorno. Ma ce l'ha già un mesetto questo rimorchio, ma anche lui, cazzo. È come quando fanno il bunker. Ogni volta 400-500 kg di differenza. Ah no, come ho detto, guarda che non ho sempre lo stesso rimorchio. Le manichette cambiano, no? C'è quella da 30 metri, c'è quando me la porto, quando no, o quando è su un altro rimorchio. Ah no, qua devi venire con lo stesso rimorchio. E poi ho detto, ma stai scherzando? Ah beh, quello che mi danno lo prendo di rimorchio col bunker. Sì, guarda, no, ma è sempre un po' più la prima puntiglia, ti ripeto, è capace di avere una mezza parola in più e allora lì vai, scarica e ciccia, no? Se ne lavano le mani, perché alla fine sono tutta la... è solo una questione di puntiglia e buco. Ma sai cos'è? Che il bunker non lo scaricano. Comunque hanno iniziato qualcosa, no, ma così, no, ma alla fine mi sono girato io, stavo ritirando i documenti e gli ho detto, ma scusate, ma non è la cosa più semplice, quando entra al bunker pesare in entrata e in uscita. In effetti sì, sarebbe la cosa ideale, forse ci vuole risolvere il problema. Sì, e se no invece di fare tanti rigiri, loro stabiliscono dall'elenco del coso di prendere quattro macchine, tre, quattro macchine o una per azienda. Quando stai entrando ti chiama, pesa, carica, ripesa e così non sbagli, invece di fare estrazione. Io gli ho detto, anche per questo fatto no, infatti gli ho detto, quando risulta in meno si sale sul peso, quando risulta in più, cazzo è la macchina sballata, no? Oggi lui gli ha caricato e gli ha dato la scala quando si è... Petrolio, non si è fermato il contatore alla prima stanca, c'avevo 50 litri già in più, e alla fine hanno levato a modo verde, compresi, per sistemare la cosa. E se quando vogliono sì, ma adesso siccome erano in tanti stamattina, no? E aspetta adesso che entrano anche gli stagionali, non, hanno, non sanno come passare il tempo. E perché intanto sanno che non sono controllati, capito cos'è il problema? Il discorso è che fanno bere cattivo tempo come gli piace. Perché non c'è nessuno che. Cioè chi li gestisce per i giuretti. Se ricordi, adesso che se ne vanno gli anziani, adesso se ne vanno gli anziani, cazzo ancora peggio. Vabbè, perché adesso qualcuno ha preso un potere, qualcuno non l'ha preso e ne sta risentendo, quindi poi non vedono cosa fare. Sono tre casi che avessi vulgani lì. Ho fatto la cena quei tre anziani che sono andati in pensione, tutti e tre insieme, no? Non lo sai che non ce n'era uno dentro di quelli lì allo stesso anno. Ma lo vedo, ma si vede, quando ce ne sono in Russia, cercate di dire le cose, non è quello che ti risolve il problema. Quando non c'è Andrea, sei una 2 settimane che manca Andrea, è un troiaio quel posto.